siamo qui, già le quattro e siamo qui. Finestrini sono chiusi su strade indifese dai nostri pesanti a caffè. E così, anche il sabato è andato così. Si è bevuto, ballato, qualcuno ha scopato, il più scemo le ha prese una faccia così. Ombre d'ore, adatte all'ora, l'autoradio intanto va. Rhythm and blues, e festiamo coi piedi di più. Finché il polso cammina, facciamo mattina tenendoci su. Coi sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, e guai a chi si sveglia, sveglia. Sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll. Yeah.